vieni qui e guarda fuori, fammi un po' vedere come tu la vedi. Io vedo fumo sulle macerie, tu guardi nello stesso punto e sorridi. Dai che allora andiamo al mare, la penisola intanto riesce a galleggiare. Facciamo che guido e tu guardi fuori, perché a guardare resti tu la migliore. Non serve pane e fortuna, serve bene coraggio, soprattutto ci vogliono buoni compagni di viaggio. Le luci d'America, le stelle sull'Africa, si accende lo spettacolo, le luci che ti scappano dall'anima. Vieni qui, andiamo fuori, fuori da uno schermo, dalle mie prigioni. C'è ancora il sole che fa il suo lavoro, su Santi Subito e sui Tagliagole. Prestami i tuoi occhi ancora, che io guardo il dito mentre tu la luna. E fatti vicina, un po' più vicina, che adesso voglio un altro panorama. Non serve pane e fortuna, serve bene coraggio, soprattutto ci vogliono buoni compagni di viaggio. Le luci d'America, le stelle sull'Africa, si accende lo spettacolo, le luci che ti scappano dall'anima. La luce dell'Africa, le stelle d'America. E fra distruzione e meraviglia, e tu che mi aspetti sulla soglia, certi miracoli uno può accorgersi solo da sveglio. Le luci d'America, le stelle sull'Africa, si accende lo spettacolo, le luci che ti scappano dall'anima. Luce dell'Africa, le stelle d'America.